This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. E benvenuti a tutti, siamo in diretta, questa è Radio Città del Capo 94.7, 96.25 megacicli in modulazione di frequenza. State ascoltando This Is Not an Exit. Ebbene, quando diciamo che mettiamo cose inascoltate, cose strane, questa sera, beh, andiamo abbastanza in là. Dico bene, dottor Scarpa? Dico bene, dottor Corrias? Ma non è vero, sono solo dicerie, cioè adesso diciamocela tutta, beh, è gente che ci vuole male, basta. Innanzitutto salutiamo, buonasera a tutti e a tutti, perché partiamo sempre in quinta, insomma, un attimo di tregua, insomma, buonasera allora. E sì, andiamo un po' in là, ma mica di tanto poi. Così vicini, così lontani. Sì, così vicini, così lontani, lo puoi dire. Prima c'era la cortina di ferro, adesso non c'è più, quindi comunque ci avviciniamo e parliamo di musica dell'altra parte dell'Adriatico. Sì, sì, è veramente vicina. La Jugoslavia si chiamava ancora così negli anni Ottanta. Aveva una fiorente scena musicale che, boh, direi perlomeno inascoltata e sconosciuta qua in Italia. Dico bene? Ma quanto mi risulta è ancora adesso abbastanza fiorente, a quanto ne so io. Poi tutto dire, tutto fare, ovviamente. Però, insomma, è sempre in fermento e questo è importante. Comunque abbiamo fatto questa puntata perché abbiamo un ospite, vabbè. Catarina, ciao. Ciao. Che, beh, insomma, c'era e può raccontarci più o meno cosa succedeva negli anni Ottanta. Anticipiamo un po' rispetto al nostro periodo di osservazione solito, comunque metà anni Ottanta, giù di lì, o anche un po' dopo, in quella che era la Jugoslavia. Allora, prima, per chi non lo sa, Jugoslavia era un paese abbastanza particolare, un misto di nazionalità diverse, di religioni diverse, e stava su un incrocio tra l'est e ovest, e il sistema politico era il socialismo. Socialismo che era guidato praticamente dal regime di presidente Tito, che cambia un attimino leggermente dopo la sua morte nel 1980. Proprio in quei anni lì nasce come epoca, inizia l'epoca di New Wave, i ragazzi, i giovani musicisti della Jugoslavia seguono questa epoca guardando sempre verso, aprendosi sempre di più verso l'Occidente, guardando sempre e cercando di copiare la musica d'Inghilterra e degli Stati Uniti. Solo che c'era un problema, non era molto facile copiarli perché praticamente New Wave, siccome è praticamente una critica in Inghilterra e negli Stati Uniti, una critica del capitalismo, in Jugoslavia c'era un altro sistema e quindi non si potevano usare gli stessi metodi per criticare anche il socialismo. Da quel punto di vista il New Wave jugoslavo prende un'altra forma e cioè, si forma un timbro abbastanza particolare, abbastanza autentico che ha segnato gli anni, interi anni, no, anni, anni 80. Life is Beh, che dire, fin qua tutto bene, no? I Laiba, che grosso modo li conosciamo tutti, molti ascoltatori di Radio Città del Capo saranno stati al TPO qualche mese fa, un annetto e mezzo fa, giù di lì, non lo so, a vedere il concerto dei Laiba. Sono ancora in giro, sono molto famosi e cantavano in inglese, quindi successo anche internazionale. In più questa era una cover di un grandissimo successo internazionale, ma veramente grosso, che era Life is Life. E loro fecero una cover dal punto di vista testuale pari pari. Sì, il testo è esattamente lo stesso, solo che cantato in questo modo, con questa intonazione, sembra un inno al nazionalismo, al nazionalsocialismo. Ma il pezzo originale era tutt'altra roba. Era un popaccio. Ma loro appunto erano diventati subito famosi anche per la loro estetica, che era molto particolare. Praticamente loro facevano un misto tra socialrealismo, nazismo e futurismo italiano, e venivano sempre conosciuti per quello. E in realtà cosa volevano fare? Volevano fare nient'altro che la critica della società nella quale vivevano. Una delle cose molto curiose su questo band è la loro esibizione dell'anno scorso, nell'agosto del 2015. Hanno fatto ben due concerti a Pyongyang, quindi in Corea del Nord, sì, e sono stati l'unico gruppo occidentale che ha mai fatto il concerto, che si è mai esibito in Corea del Nord. Evidentemente i gerarchi coreani non hanno tutto questo senso dell'umorismo. Quindi dopo Razzi e Salvini anche Laiba, però insomma. No, vi prego, basta, per favore. Dimentichiamoci. Questi. Allora, le prime due canzoni che abbiamo, i primi due brani che abbiamo ascoltato erano i brani della scena di Ljubljana, la scena slovena. In quell'epoca si sviluppano, praticamente in Jugoslavia vengono sviluppate quattro scene indipendenti, una appunto a Ljubljana, l'altra a Zagabria, poi una a Fiume, città di Fiume, sempre in Croazia, dopodiché anche a Belgrado. E adesso con questo, con l'ultimo brano che abbiamo sentito, ci siamo spostati dalla Slovenia verso Croazia, quindi adesso le prossime canzoni che sentiremo saranno quelle della scena croata. Programto compiuto. Abbiamo appena ascoltato un brano del 1984, il brano di synth pop New Wave. Il gruppo si chiama Dennis & Dennis, con la loro bellissima cantante Marina, ex studentessa di architettura. Marina è ancora attiva, fa il DJing, si è trasferita perché il gruppo nasce a Fiume, poi lei si è trasferita durante, dopo la guerra, a Belgrado, dove anche adesso la potete trovare nei locali dove fa il DJing sempre della musica di New Wave. Con il prossimo brano invece rimaniamo sempre a Fiume e ascoltiamo la band che si chiama Xenia, e il brano si chiama Isne Nadime, ovvero Sorprendimi, l'anno 1983. Siete sempre in diretta, questa è sempre Radio Città del Capo, This is not an exit. Se volete, se proprio volete, potete mandare un sms al 348 348-76-49-289, ripeto, 348-76-49-289. Mi sa che funzioni anche WhatsApp, poi provo a lanciarlo. E per continuare, rimaniamo ancora a Fiume e ascoltiamo il gruppo Paraf, che usava un sound leggermente diverso da quello che abbiamo sentito fino adesso. Questa canzone che ascolteremo è dal 1982. We'll be right back. in Italia ci ha fregato la melodia, c'è poco da fare. Questi brani non li avevo mai ascoltati, ma non capisco nulla di quello che dicono, perché ovviamente lo sloveno... Dai, è chiarissimo, Babe, che dici? Sì. Hai trovato assonanze con qualche sardo. Allora, dopo questa ci spostiamo, dopo la Croazia ci spostiamo a Belgrado, la capitale della Jugoslavia. E per iniziare ho scelto il brano che si intitola Russia, fatto dalla band che si chiamava Idoli, che erano il simbolo della New Wave belgradese. Il titolo Russia ovviamente viene scelto per provocare e criticare, e parliamo degli inizi degli anni 80, dell'anno 1982, e questo è praticamente un vero esempio dell'apertura dopo la morte di Tito. Iran, 2, 3, 4, sad, 6, 7, 8. We'll be right back. je snažnije ruke nego ja. Imala je snažnije ruke nego ja. Nije bilo stvarja da je savlada. Nije bilo pustila da je savlada. Dobbiamo fare un mea culpa radiofonica. Allora, ci ha mandato un sms Chiara dicendoci che il testo di Life is Life dell'Aibach non è lo stesso dell'originale, sembra uguale, ma con piccole variazioni, ed effettivamente sono piccole ma significative. Decisamente, la parola band viene modificata con la parola land, che sentendo, ascoltando, quasi non se ne rende conto, invece il cambiamento è sostanziale, quindi mi cospargo il capo di merda e vergogna, e grazie Chiara. Che sei un grande, Matteo. Allora, per continuare, volevo solo dire che questo wave jugoslavo dopo qualche anno esce fuori dai confini e inizia ad avere successo anche nei paesi, negli altri paesi, paesi vicini come Cecoslovacchia, come Polonia, eccetera. Nello stesso tempo alcuni musicisti che hanno sviluppato la carriera in Jugoslavia vanno all'estero, si sviluppano da soli o fanno anche le collaborazioni con le band all'estero. Una di quelle artiste anche Slađana Milošević, che nel 1983 ha fatto una bellissima collaborazione con il gruppo tedesco che si chiama Neutral Design. Hanno fatto un album che è stato registrato sia in inglese per il mercato tedesco, ma anche in serbo-croato per la Jugoslavia. Noi stasera ascolteremo una canzone che assomiglia un po' anche alla musica di Grande Carpenter e si chiama Neko je tu, qualcuno è qui. razna me soba, grize za vrat, tira me vladim prsima. Neko je tu, osjeća se, sa mnom u sobi, sa mnom u sobi. Osjeća se, neko je tu, sa mnom u sobi, sa mnom u sobi. Beh, se Essi Vivo non l'avessero girato nel 1983 in Serbia, questa sarebbe potuta essere la colonna sonora, giusto? Sì, sì, giustissimo. Adesso io vorrei continuare con una cosa un po' più leggera. Il gruppo si chiama Lucky Pinguini e la canzone La ragazza dello spazio. Parliamo sempre di synth pop e new wave. Anche qui l'anno 1983. Lucky Pinguini? I pinguini leggeri. Thank you. Rimaniamo sempre a Belgrado e ascoltiamo, è sempre nel 1983, ascoltiamo il brano Giocatore d'azzardo del gruppo che si chiamava Uškripcu. Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka. Sreća misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Krelo bi toplo, ruke bi hladne, ostane mi vreme, kad si kraj mene. Krelo bi toplo, ruke mi hladne, ostane mi vreme, kad si kraj mene. Sreća misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Telo mi toplo, ruke mi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene. Telo mi toplo, ruke mi hladne, usne mi vrele, kad si kraj mene. Era un pezzo breve ma abbastanza significativo per la New Wave della Jugoslavia, il gruppo si chiamava Charlo Acrobata. E adesso invece ascoltiamo una voce femminile, una voce molto femminile che si chiama Baby Doll. Baby Doll inizia la sua carriera nel 1981 e già nel 1984 si trasferisce a Cairo dove canta nel jazz club di Hotel Sheraton. Una volta quando facevano un'intervista a Simon Le Bon di Duran Duran, e sulla domanda chi fosse la sua cantante preferita, lui rispose: sicuramente non la conoscete, si chiama Baby Doll e canta un jazz meraviglioso nei club di Cairo. Per stasera ho scelto una canzone che è molto influenzata dal mondo arabo, della musica araba, è una canzone del 1981 e si chiama Mustafa. Beh, Simon Le Bon aveva l'orecchio fino, questa sembra Natasha Atlas quei 7, 8, 10 anni prima, giusto? Anche 15, Transglobal Underground sarebbero arrivati a inizio degli anni 90, qua siamo nell'81. Sì, sì, era veramente bello, bello come pezzo. Adesso metteremo un altro gruppo molto attivo e molto significativo che si chiamava Electric Orgasm, ovvero l'orgasmo elettrico. Nel loro album del 1982 si trovano due versioni della stessa canzone, dove la seconda è fatta perfettamente nella versione dub, parliamo del 1982. La rivista britannica New Musical Express e il giornalista Chris Bond li ha descritti come uno dei progetti più eccitanti non british all'epoca. Quindi per voi l'orgasmo elettrico. Andiamo nel 1985, la band si chiama Max Intro e la canzone La ragazza belgradese. Beogradska devojka. Bravissimo. Anche in Arancia Meccanica. Emociju, pravu vatrenu, svaki pokret tvoj sviđa. tako drska i obesna si ti, puna ljubavi. Svaki poker tvoj sviđa mi se, sve što učiniš ti dobro je. Tako drska i obesna si ti, ti puna ljubavi. Rimaniamo sempre a Belgrado, un'altra voce femminile, il gruppo si chiama Zana, la cantante si chiama Zana Nimani ed è di origine albanese, con il titolo della canzone Via America, un titolo abbastanza italiano, 1982. Ma Via America quindi è il nome di una strada? No... Ciao. Zana, la chiamavano anche la Blondie della Jugoslavia. Allora, per concludere la nostra serata ho scelto una canzone, per me è un capolavoro. Il pezzo si chiama Metak, ovvero La Pallottola, fatta da due grandissimi nomi della scena belgradese. Uno di loro è il frontman di uno dei gruppi più famosi di Jugoslavia, che si chiamava Ekaterina Velika, e l'altro si chiamava Suba. L'artista che dopo lo sviluppo della carriera in Jugoslavia si trasferisce a Rio de Janeiro e lì, ispirato dalla musica brasiliana, fa l'album che si chiama Sao Paulo Confessions, che gli crea praticamente la fama mondiale, perché alcuni pezzi di questo album li troverete anche nelle compilazioni di Buda Bar, eccetera. Suba è stato anche il produttore dell'album brasiliano più venduto all'estero, l'album che si chiama Tanto Tempo di Bebel Gilberto. Il giorno stesso, quando è uscito il suo album Sao Paulo Confessions, Suba muore nell'incendio nello suo studio, cercando di salvare il materiale registrato. È successo nel 1999 e 8 anni prima anche la Jugoslavia era morta nell'incendio causato dalla caduta di Muro di Berlino, e da lì anche noi abbiamo cambiato i dischi. Grazie e buonanotte. Beh, a questo punto buonanotte a tutti, grazie per l'ascolto. Bella. Una puntata, direi, appunto, vicina e lontana, esotica, perché io non conoscevo praticamente nulla. No, tranne l'Aibach. Bella puntata. Ringraziamo naturalmente Caterina, la nostra amica. Sì. Grazie. E salutiamo giovedì prossimo. Ci sentiamo giovedì prossimo, sempre sulle solite frequenze. E mi raccomando, fate i bravi. Nicola, ma fai le vacanze lunghe te. Buonanotte a tutti. Mi sa che...